Gran breta noc per el vescov Tabarius, che leva se stremie e ti sudà. El sente il cuor che il par un caval, la fa un son tremendo e adesso le agita. El chiama Viperio, el so tutto fare, che il riva de cursa spara come un razzo. El ghe dis, vai su in cima alla torre e chiama Turbigul, il monaco pazzo. Digli di andare nella camera nera, dove fra poco lo raggiungerò. Cose non chiare mi appaiono in sogno, simboli inquieti che ancora non so. Frate Turbigul veniva de via, d'en sit che nisen mai l'era sentù. Passava i giornata a fa pastrugnat, con feuille, calderoni e amenico iscundù. El ravanava per i cimiteri, faceva il profeta coi busec di galen, e leggeva i carti, i man, i stel, beveva il sang, misciac con tel ven. Faceva copia col nost brau vescov, che con lui l'era un toc de pan. Propi lui, che in 4 e 4 ot brusava chi preparava i tisan. La camera negra son propi content che nisson de vi oltre l'ha mai veduta. Ma il vescov e il mago che strava in diur, e chissà l'anima, ma in delera in metuda. E cosa la turba, o vostra grazia, per essere qui così trafelato? La luna nel cielo è ancora di guardia, e il sole dal buio è ancora celato. E il vescov la sa che le ancamo noci, però la paura l'è mai che una sveglia, quella impienis tutto il cervello come fa l'acqua impienì la bottiglia. Mi sono visto cadere sotto un fulmine bianco, ho visto il mio abito insanguinato, ho visto una spada venuta da altrove e la morte con gli occhi di quell'uomo sfregiato. Mi devi spiegare cos'è questo sogno e di che colore è la freccia del fato. Prepara uno scudo per questa mia sorte, che non abbia mai rischio di trovarmi spiazzato. E il mago si gira con la faccia ingrugnita, e va a sgarlare nella sua mercanzia, e va da denti del so pentulon, ma il cascia un gigo, e poi è il solta via. Presagio tremendo, la fine di tutto, visione terrifica, oh sorte severa. Se vuole sapere della freccia il colore, le posso dire, la freccia è nera. Il fulmine arriva con colui che lo impugna, un uomo da non sottovalutare, ma è l'altra persona che appare sbiadita, l'ombra che più ci può preoccupare. Per tutti gli arcani e i demoni tutti, si può sapere dove abbiamo sbagliato. Da anni ormai pilotiamo le forze, con loro al timone abbiamo navigato. Adesso perché il vento incantato impone di colpo questa inversione? Perché si ritorce contro noi stessi come la coda di uno scorpione? I busec del vescov in fase del terror, la faccia le bianca come una candela, e il vannanza in dre fa come il ragn che il gheresta denti della sua ragnatela. E il chiama Viperio, che comanda la guardia, la chiama per quel corridoi. Si può sapere dove sono le guardie, dove è finito Viperio coi suoi? Nel disime dei ieni soldà, o almeno qui che resta, gli andrei a fa la fe, con un roche de selvadec, catif come bis e con ti fac pitura, che in della noce ancupai sentinel e sin spantegà per tutto il palazzo. Adesso il Viperio conscia la sua squadra, per fermai le drei a fa un bel mazzo. I solten fa de tutti i cantoni, maneggen Courlash, Seghez, Fulcen. Vedendo chi armi, che più ne son dubbi, in scià di montagne tremezzen. Son quei buzzurri selvaggi dei monti, quelli che venerano un certo dio Nacha. Non permetterò, o vostra eminenza, che 4 bifolchi siano una minaccia. Ma il vescov, che il trema tut fu l'armà, e il varda fè della sua finestrella, e il sangue che in gir l'è quel di Soomen. E la situazione le mea tanta bella. E il frate Turbigul col sofà de serpent, e il fa strani versi con timman un baston, partì su una lingua de fuoco incredibile, che brusa a distanza 3 o 4 persone. I omen di mont i resten de merda, a vede che l'umet, stort come un nam, che le drea brusa i tuc come tanti virel, e cuncia come arma d'uma un toc de ram. Assaggiate, o bifolchi, il potere del fuoco, coi suoi 1000 volti e i suoi 1000 suoni. Ma poi, il sempica in sulla spalla, e un uomo che dice, piacere, Tony, e il vete il gigante, vestito di argento, sparata fra gli occhi come un para de uf, e il vete anche il fulmine in sulla curazza, e per l'ultima volta, forse, il Lancelot. Uomo del fulmine, sii maledetto, il mio incantesimo ti brucerà. Ma Tony ride e spulza la spada. Desmette la bambù e il feuclel me pa. Prevela te questa mia fiamma e dim se te piace mo po' inchetant giuga con tel feuc purta del demoni che te mandi a trua proprio in questo istant. La sguara spada la falso tragit e la pulverizza quell'om maledet. Dall'esplosion se leva un gran gigul, la spada la posa dopo il colpo perfet. Intant, giò de suta, Viperio il se incazza, e il cupa giò gente sciai de là. Se il Savaris che persona nel vescuf, forsi il Gavris già mori pensa. Ma lui il cret de protege il dio intera, e allora il se bat proprio fino alla fin. Ma tu ci oltri somen fida, e il sa proprio gnanca lui, in dein. Denanza lui, gen fio minacius, e lui ghe dis, ad este smezzi. Ma quel el se sposta e il ghe taglia la gula. E poi ghe dis che si chiama Ghezzi. La sua arma l'era quasi invisibile, l'era una specie di resù. Da quel dè l'han sempre du prada anche in eù di soneù. E il por Viperio, e il famò quai pass. E poi de colpi e il manca via. E quel fiulet ades lele, che pare il David denanza il Golia. L'era me un nom cattiv, e un guerriero anche troppo buon, fino al punto de crepà per un macaco. E de cui io.